Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren, traduzione di Donatella Ziliotto, Annuska Palme Sanavio e Samantha K. Milton Knowles. Pippi si trasferisce a Villa Villa Colle. Alla periferia della piccola, piccola città c'era un vecchio giardino in rovina. Nel giardino c'era una vecchia casa e nella casa viveva Pippi Calzelunghe. Aveva 9 anni e abitava lì tutta sola. Non aveva né mamma né papà e in effetti era una gran bella cosa perché così nessuno poteva dirle di andare a dormire proprio quando si stava divertendo di più o costringerla a bere l'olio di fegato di merluzzo quando invece lei avrebbe desiderato delle caramelle. Un tempo Pippi aveva avuto un papà al quale voleva un sacco di bene. Sì, certo, aveva avuto anche una mamma, ma erano passati talmente tanti anni che di lei non ricordava nulla. La mamma, infatti, era morta quando Pippi era una bimba piccola piccola che stava nella culla e strillava in maniera così raccapricciante che nessuno riusciva a rimanerle accanto. Pippi era convinta che ora la sua mamma se ne stesse lassù in cielo a guardare la sua bambina attraverso un piccolo buco, e quindi aveva preso l'abitudine di fare un cenno di saluto verso l'alto dicendo «Non stare in pensiero per me, io me la cavo sempre!». Suo padre invece, Pippi non se l'era dimenticato. Era capitano di marina e navigava per i vasti mari. Pippi aveva sempre navigato con lui sulla sua nave finché un giorno, durante un temporale, lui era volato nell'oceano ed era scomparso. Pippi però era sicurissima che una volta o l'altra il suo papà sarebbe ritornato. Il pensiero che potesse essere annegato non la sfiorava nemmeno. Era invece convinta che fosse approdato su un'isola popolata di indigeni, fosse diventato il loro re e se ne andasse in giro tutto il giorno con una corona d'oro sulla testa. «La mia mamma è un angelo e mio padre è un re dei mari del sud. Non capita mica a tutti i bambini di avere dei genitori tanto distinti», diceva Pippi soddisfatta. «E appena il mio papà si sarà costruito una barca mi verrà a prendere, e così diventerò la principessa di una tribù dei mari del sud. Urrà! Allora sì che ci divertiremo!» Era stato proprio il padre di Pippi a comprare quella vecchia casa in mezzo al giardino, molti anni prima. Contava di andarci a vivere con Pippi quando fosse diventato troppo vecchio per continuare a navigare, ma poi gli era capitata quella stupida cosa di volare in mare, e Pippi, in attesa di vederlo ricomparire, decise di stabilirsi a Villa Villa Colle. La casa si chiamava così. Era ammobiliata e perfettamente sistemata. Non attendeva che il suo arrivo. Una bella sera d'estate, Pippi aveva detto addio all'equipaggio della nave di suo padre. I marinai le volevano un gran bene e Pippi ricambiava l'affetto. «Addio, ragazzi!» disse Pippi e li baciò a uno sulla fronte. «Non state in pensiero per me, io me la cavo sempre!» Dalla nave prese 2 cose, una scimmietta che si chiamava signor Nilsson, regalatale dal suo papà, e una grossa valigia piena di monete d'oro. Dal ponte della nave i marinai seguirono Pippi con lo sguardo finché non la videro scomparire. Lei se ne andò dritta, senza voltarsi indietro, col signor Nilsson su una spalla e la valigia in mano. «Che bimba straordinaria», disse uno dei marinai quando la vide scomparire all'orizzonte, e si asciugò una lacrima. E aveva ragione. Pippi era davvero una bambina straordinaria. La cosa più straordinaria in lei era la sua forza. Era così tremendamente forte che in tutto il mondo non esisteva un poliziotto che fosse forte quanto lei. Riusciva a sollevare un cavallo intero se voleva. E voleva. Aveva un cavallo tutto suo, comprato con una delle sue tante monete d'oro il giorno stesso del suo arrivo a Villa Villa Colle. Aveva tanto sognato di averne uno tutto per sé, e ora il cavallo abitava sulla veranda. Ma quando Pippi desiderava bersi lì il suo caffè pomeridiano, lo sollevava e lo depositava in giardino. Vicino a Villa Villa Colle c'era un altro giardino e un'altra casa. In quella casa abitavano un papà e una mamma con i loro 2 graziosi bambini, un maschio e una femmina. Si chiamavano Tommy e Annika ed erano 2 bambini molto gentili, ben educati e obbedienti. Mai che Tommy si mangiasse le unghie o si sognasse di non fare quello che la mamma gli chiedeva. Quanto ad Annika, Non si metteva a strillare quando non riusciva ad averla vinta e se ne andava sempre in giro tutta in ordine, con dei vestitini di cotone perfettamente stirati, che stava bene attenta a non sporcare. Tommy e Annika giocavano bene insieme nel loro giardino, ma avevano spesso desiderato un compagno di giochi e quando ancora Pippi navigava per i mari col suo papà, a volte aggrappati allo steccato si dicevano: «È una vera stupidaggine che nessuno si trasferisca in quella casa. Qualcuno dovrebbe andarci ad abitare, qualcuno con dei bambini». Quando quella bella sera d'estate Pippi varcò la soglia di Villa Villa Colle, Tommy e Annika non erano a casa. Erano andati a passare una settimana dalla nonna materna, perciò non sospettavano nemmeno lontanamente che qualcuno fosse venuto a vivere nella villa accanto. E il primo giorno dopo il loro ritorno a casa, mentre se ne stavano come al solito a fissare la strada da dietro il cancello, non immaginavano che ci fosse così vicino un nuovo compagno di giochi. Mentre pensavano a cosa fare, si domandavano se quel giorno sarebbe accaduto qualcosa di bello o se invece si sarebbe rivelata essere una di quelle giornate noiose in cui proprio non si sa cosa inventarsi, proprio allora il cancello di Villa Villa Colle si aprì e ne uscì una ragazzina. Era la bambina più straordinaria che Tommy e Annika avessero mai visto, e altri non era se non Pippi Calzelunghe, che iniziava la sua passeggiata mattutina. Era fatta così. I suoi capelli, color carota, erano stretti in due trecce dritte in fuori. Il naso aveva la stessa forma di una patata, molto piccola ed era tutto spruzzato di lentiggini. E sotto il naso c'era una bocca decisamente larga, con due file di denti bianchi e forti. Il suo vestito era molto singolare. Pippi se l'era cucito da sola. La sua idea sarebbe stata di farlo azzurro, ma poi, siccome la stoffa non le bastava, ci aveva applicato qua e là delle toppe rosse. Un paio di calze lunghe, una marrone e l'altra nera, le copriva le lunghe gambe magre. E poi aveva due scarpe nere, lunghe esattamente il doppio dei suoi piedi. Gliele aveva comprate il suo papà in Sud America, perché i suoi piedi ci crescessero dentro e Pippi non voleva indossarne altre. Ciò che fece proprio sgranare gli occhi a Tommy e Annika fu la scimmia che sedeva su una spalla della bambina sconosciuta. Era un piccolo cercopiteco che indossava pantaloni blu e una giacca gialla. E portava in testa una paglietta bianca. Pippi camminava lungo la strada con un piede sul marciapiede e l'altro nel canale di scolo. Tommy e Annika la seguirono con lo sguardo finché non fu fuori dalla loro vista. Dopo un po', eccola di nuovo. Ora però camminava all'indietro, così non aveva bisogno di voltarsi per tornare a casa. Giunta davanti al cancello di Tommy e Annika, Pippi si fermò. I bambini si fissarono in silenzio. Infine Tommy disse: «Perché camminavi all'indietro?» «Perché camminavo all'indietro?» esclamò Pippi. «Non viviamo forse in un paese libero? Ognuno non può camminare come più gli piace? A ogni modo sappi che in Egitto tutti camminano così e nessuno ci trova nulla di strano». «E tu come lo sai?» chiese Tommy. «Mica sei stata in Egitto». «Come non sono stata in Egitto? Certo che ci sono stata. Sono stata in lungo e in largo in tutto il globo terrestre e ho visto cose ben più strane di gente che cammina all'indietro». Mi domando che cosa avresti detto se mi fossi messa a camminare sulle mani come si usa in Indocina. Questa è una bugia bella e buona, osservò Tommy. Pippi ci pensò su un secondo. Hai ragione, ho proprio detto una bugia, ammise addolorata. Mentire è bruttissimo, aggiunse Annika che finalmente osava aprir bocca. Sì, mentire è proprio orribile, convenne Pippi sempre più avvilita. Ma capisci, io ogni tanto me lo dimentico. Dopotutto, come puoi pretendere che una povera piccola bambina con un angelo per mamma e un re dei mari del sud per papà e che non ha fatto altro per tutta la vita che navigare per i mari possa dire sempre la verità? E comunque, e mentre diceva questo il viso lentigginoso le si illuminò tutto, voglio che sappiate che nel Congo belga non esiste una sola persona che dica la verità. Tutto il giorno non si fa altro che dire bugie, si comincia alle 7 di mattina e si continua fino al tramonto. Quindi, se qualche volta mi capitasse di mentire, cercate di scusarmi e ricordatevi che dipende unicamente dal fatto di essere rimasta un po' troppo a lungo nel Congo belga. Possiamo essere amici lo stesso, vero? Certo che sì, esclamò Tommy, e all'improvviso si rese conto che probabilmente quella non sarebbe stata una giornata noiosa. A proposito, perché non venite a fare colazione da me? Propose Pippi. Già, perché no? Disse Tommy. Andiamo. Sì, ora subito, esclamò Annika. Prima però devo presentarvi al signor Nilsson, disse Pippi, e la scimmietta si levò il cappello e salutò molto educatamente. E così i bambini entrarono dal cancello sgangherato di Villa Villa Colle, risalirono il vialetto di ghiaia fiancheggiato da vecchi alberi coperti di muschio, che sembravano proprio perfetti per arrampicarsi, fino ad arrivare alla casa. Poi passarono dalla veranda, dove c'era un cavallo che stava mangiando tranquillo dell'avena da una zuppiera. «Ma come? Perché tieni un cavallo sulla veranda?» chiese Tommy. Tutti i cavalli di sua conoscenza abitavano in una stalla. «Beh», disse Pippi con aria pensierosa, «in cucina darebbe fastidio e in salotto non si trova a suo agio». Tommy e Annika fecero una carezza al cavallo e poi entrarono nella casa, che comprendeva una cucina, un salotto e una camera da letto. Sembrava che Pippi si fosse dimenticata di fare le pulizie settimanali quel venerdì. Tommy e Annika si guardarono intorno con cautela per vedere se quel re dei mari del sud se ne stesse seduto in qualche angolo. Non ne avevano mai visto uno in vita loro. Ma dato che non si vedeva nessun papà e nemmeno una mamma, Annika domandò leggermente inquieta: «Abiti qui tutta sola?» «No, certo che no», disse Pippi. «Anche il signor Nilsson e il cavallo vivono con me». «No, volevo dire, non hai né mamma né papà?» «Nemmeno un pezzettino», rispose Pippi allegramente. «Ma allora chi ti dice quando devi andare a letto di sera e cose così?» chiese Annika. «Me lo dico da sola», spiegò Pippi. «Prima con le buone, e se non obbedisco me lo dico un'altra volta più severamente, e se continuo a non voler obbedire, allora finisce a sculacciate». Non si può dire che Tommy e Annika avessero capito proprio del tutto, ma pensarono che forse era un buon sistema. Intanto erano entrati in cucina e Pippi strillò: «Che belle frittelle impasteremo, che belle friggelle friggeremo, che belle mangelle mangeremo!» Dopodiché tirò fuori 3 uova e le gettò su per aria. Un uovo le cadde in testa e si ruppe, e il tuorlo le colò negli occhi, ma le altre 2 le acchiappò abilmente al volo in una casseruola, dove si ruppero. «Ho sempre sentito dire che il tuorlo d'uovo fa bene ai capelli», disse Pippi, e si asciugò gli occhi. «D'ora in poi cresceranno a vista d'occhio. Del resto in Brasile tutti, ma proprio tutti, vanno in giro con delle uova tra i capelli. Questo è il motivo per il quale lì i calvi non esistono. Solo una volta un tipo, matto da legare, invece di rompersi le uova sulla testa se le mangiò. Ovviamente diventò calvo e quando si faceva vedere in pubblico causava un tale scompiglio che doveva intervenire la polizia». Mentre parlava, Pippi aveva tolto molto abilmente i gusci d'uovo dalla casseruola con le dita. Staccò poi dalla parete una spazzola da bagno e con questa si mise a sbattere le uova con gli altri ingredienti, facendone schizzare un bel po' sulle pareti. Alla fine versò quel poco che si era salvato in una padella che si trovava sul fuoco. Quando la frittella fu cotta da un lato, Pippi la fece saltare quasi fino al soffitto, rigirandola in aria, e poi la riacchiappò con la padella, e quando fu pronta la lanciò attraverso la cucina direttamente in un piatto sul tavolo. «Mangiate!» strillò Pippi. «Mangiate prima che si raffreddi!» Tommy e Annika mangiarono e trovarono che fosse una frittella veramente squisita. Poi furono invitati a passare in salotto. Qui c'era un solo mobile, un enorme comò con un'infinità di cassettini. Pippi li aprì e mostrò a Tommy e Annika tutti i tesori che vi aveva riposto. C'erano curiose uova d'uccello, strane conchiglie e pietre, graziose scatoline, specchietti d'argento, collane di perle e tante altre cose che Pippi e il suo papà avevano comprato durante i loro viaggi intorno al mondo. Pippi offrì ai suoi nuovi amici un regalino a testa per ricordo. A Tommy diede un pugnale col manico di madreperla iridescente e ad Annika una scatolina col coperchio ornato di conchiglie rosa cipria. Nella scatolina c'era un anello con una pietra verde. «Perché adesso non andate a casa?» suggerì Pippi. «Così domani potete ritornare, perché se non andate a casa non potete ritornare e sarebbe proprio un gran peccato». Tommy e Annika erano d'accordo, quindi si avviarono verso casa. Passarono accanto al cavallo, che nel frattempo aveva mangiato tutta l'avena, e uscirono dal cancello di Villa Villa Colle. Quando li vide andar via, il signor Nilsson sventolò il cappello. Pippi cerca cose. Annika si svegliò presto il mattino seguente. Balzò giù dal letto e si avvicinò a Tommy in punta di piedi. «Svegliati, Tommy!» gli disse scuotendolo per un braccio. «Svegliati, che andiamo a trovare quella buffa bambina dalle grandi scarpe!» Tommy fu subito vispo come un grillo. «Nel sonno mi sentivo che oggi sarebbe successo qualcosa di divertente, ma non sapevo che cosa», disse sfilandosi la giacca del pigiama. Poi corsero tutti e 2 in bagno, si prepararono e si lavarono i denti molto più in fretta del solito, si infilarono i vestiti in un batter d'occhio e 1 ora prima del normale scivolarono lungo la ringhiera della scala fino alla tavola della sala da pranzo, alla quale si sedettero reclamando immediatamente la loro cioccolata. «Che succede?» chiese la mamma. «Perché tutta questa fretta?» «Andiamo dalla nuova bambina della casa accanto», disse Tommy. «E forse ci restiamo tutto il giorno», aggiunse Annika. Quella mattina Pippi stava facendo i biscotti allo zenzero. Aveva fatto un impasto enorme e l'aveva spianato sul pavimento della cucina. «Perché devi capire», spiegava la scimmietta, «che una spianatoia non basta quando si devono fare almeno 500 biscotti». Stava pancia in giù sul pavimento ritagliando cuori di pasta a tutta velocità. «Smettila di camminare sull'impasto, signor Nilsson», stava dicendo con fare seccato quando suonarono alla porta. Pippi si precipitò ad aprire. Era bianca dalla testa ai piedi come un mugnaio e quando strinse calorosamente la mano a Tommy e ad Annika li avvolse in una nuvola di farina. «Sono proprio felice che siate venuti a trovarmi», disse e scrollò il grembiule sollevando una seconda nuvola di farina. A Tommy e Annika ne andò talmente tanta in gola che si misero a tossire. «Che cosa stai facendo?» chiese Tommy. «Beh, se ti dicessi che sto pulendo la cappa del camino, tu, astuto come sei, non mi crederesti. Così ti confesso subito che sto facendo i biscotti. Ma presto avrò finito. Intanto potete accomodarvi sul cassone della legna». Come sapeva essere svelta Pippi. Tommy e Annika, seduti sul cassone della legna, furono testimoni della furia con cui si precipitava sulla pasta spianata, gettava i biscotti nelle teglie e infilava le teglie nel forno. Pareva di essere al cinema. «Ecco fatto!» esclamò Pippi alla fine, richiudendo lo sportello del forno sulle ultime teglie. «Che facciamo adesso?» chiese Tommy. «Io non so che cosa avete intenzione di fare voi», disse Pippi. «Quanto a me, non me ne rimarrò con le mani in mano. Infatti sono una cerca cose e questa professione non lascia mai un minuto libero». «Cosa hai detto che sei?» chiese Annika. «Una cerca cose». «E che cos'è?» domandò Tommy. «Qualcuno che cerca le cose, no? Cos'altro potrebbe essere?» disse Pippi, ammucchiando con la scopa la farina sparsa per il pavimento. «Il mondo è pieno zeppo di cose e ci vuole proprio qualcuno che si occupi di trovarle. Questo è appunto il compito dei cercacose». «Ma che tipo di cose?» insistette Annika. «Che ne so, qualsiasi tipo», rispose Pippi. «Pepite d'oro, piume di struzzo, topi morti, scoppiarelli di Natale, minuscole viti e cose del genere». A Tommy e Annika sembrò piuttosto divertente e decisero di improvvisarsi cercacose anche loro. Tommy, tuttavia, precisò che avrebbe preferito trovare una pepita d'oro piuttosto che una minuscola vite. «Staremo a vedere», disse Pippi. «Qualcosa si trova sempre, però sbrighiamoci se non vogliamo che altri cercacose si portino via tutte le pepite d'oro sparse nella zona». I cercatori si misero dunque all'opera. Decisero di cominciare dai dintorni delle ville vicine perché Pippi aveva fatto notare che, nonostante si potesse benissimo scovare una vite nel cuore di un bosco, gli oggetti migliori si trovano quasi sempre vicino alle abitazioni degli uomini. «Però», disse, «mi è anche successo il contrario. Mi viene in mente quella volta che cercavo cose nella giungla del Borneo, proprio nel fitto della foresta dove mai, mai nessun uomo aveva messo piede. Indovinate che cosa ti trovo? Una stupenda gamba di legno. In seguito la regalai a un tipo con una gamba sola, il quale mi disse che una simile gamba non avrebbe potuto acquistarla nemmeno a peso d'oro». Tommy e Annika si misero a osservare attentamente Pippi per capire quale dovesse essere il comportamento del perfetto cercacose. Pippi correva da un lato all'altro della strada, facendosi solecchio con la mano, e cercava. Di tanto in tanto si inginocchiava, frugava tra le assi di uno steccato, poi esclamava delusa: «Che strano, avrei giurato di aver visto una pepita d'oro!» «Ma davvero si può raccogliere tutto quello che si trova?» si informò Annika. «Sì, tutto quello che c'è per terra», disse Pippi. Avevano fatto pochi passi che videro un vecchio signore addormentato disteso sull'erba verde di fronte alla sua villa. «Ecco, quello è per terra e noi l'abbiamo trovato!» esclamò Pippi. «Prendiamolo!» Tommy e Annika la guardarono terrorizzati. «No, no, Pippi, non possiamo mica portarci via un signore, non si può», disse Tommy. «E poi che ce ne facciamo?» «Che ce ne facciamo? Ma si può usare in mille modi. Potremmo per esempio tenerlo in una gabbia da conigli invece di un coniglio e nutrirlo con foglie di dente di leone. Ma se proprio non volete, lasciamo perdere. Però mi fa una rabbia pensare che forse arriva un altro cercacose e ce lo frega. Proseguirono. D'improvviso Pippi gettò uno strillo acutissimo. Non credo ai miei occhi! Gridò sollevando dall'erba un vecchio barattolo di latta tutto arrugginito. Che tesoro ho trovato! Che tesoro! Di barattoli non se ne hanno mai troppi! Tommy lo guardò con aria scettica. E a che serve? Chiese. Ha un sacco di cose, ribatté Pippi. Per esempio, puoi riempirlo di biscotti e così diventa uno stupendo barattolo con biscotti. Oppure puoi non riempirlo di biscotti e allora diventa un barattolo senza biscotti. Certo, in quel caso non è proprio stupendo, ma torna utile lo stesso. E di nuovo esaminò il barattolo, che era davvero arrugginito e per di più aveva un buco sul fondo. Devo ammettere che ha più l'aspetto di un barattolo senza biscotti, disse pensierosa. Ma puoi anche infilartelo in testa e fare finta che sia notte fonda. E così fece. Con il barattolo in testa si addentrò nel quartiere residenziale come una piccola torre di latta e non si arrestò finché, inciampando in un recinto di fil di ferro, cadde lunga distesa. La latta, sbattuta così per terra, fece un gran fracasso. «Vedete?» disse Pippi sfilandosi il barattolo dalla testa. «Se non me lo fossi messo avrei sbattuto la faccia e mi sarei rovinata per la vita». «Però», azzardò Annika, «se non avessi avuto il barattolo in testa non saresti inciampata nel recinto». Non aveva ancora terminato il discorso che si udì un nuovo strillo di Pippi, la quale trionfante sventolava un rocchetto senza filo. «Ma questo è il mio giorno fortunato!» esclamò. «Un delizioso rocchetto per farci le bolle di sapone o da appendere con uno spago al collo come una collana! Voglio andare subito a casa a farci qualcosa!» In quel medesimo istante il cancello di una villa vicina si spalancò e ne uscì correndo un ragazzo. Aveva l'aria molto spaventata e non era strano, dato che 5 ragazzi gli stavano alle calcagna. Dopo averlo raggiunto, lo spinsero contro una palizzata e gli saltarono addosso. E tutti e 5 insieme presero a tempestarlo di pugni mentre lui piangeva e si teneva le braccia sul viso per difendersi. «Dategli addosso!» l'incitava il più grande e grosso dei ragazzi, «che non osi più farsi vedere in questa strada!» «Oh!» esclamò Annika. «Quello che stanno menando è Ville! Come possono essere tanto cattivi?» «È quell'orribile Bengt. Vuole sempre fare a botte», disse Tommy. «E in 5 contro 1 poi! Che vigliacchi!» Pippi si avvicinò ai ragazzi e con l'indice diede un colpetto sulla spalla di Bengt. «Ehi tu!» disse. «Pare proprio che abbiate intenzione di fare polpette del piccolo Ville, visto che gli date addosso in 5». Bengt si voltò e si trovò di fronte una ragazzina sconosciuta che per giunta osava toccarlo. Per un attimo rimase a bocca aperta dallo stupore, ma poi un ghigno gli contrasse la faccia. «Ehi ragazzi!» disse. «Ragazzi, lasciate perdere Ville, venite un po' a vedere questa bambina. Da non credere!» E si piegava in 2 dalle risate, dandosi grandi manate sulle ginocchia. In un baleno tutti si raccolsero intorno a Pippi, tutti meno Ville, che si asciugò le lacrime e andò a mettersi accanto a Tommy senza dare nell'occhio. «Guardate che razza di capelli, un vero e proprio incendio! E che scarpe!» continuò Bengt. «Me ne presteresti una? Avrei voglia di andare a remare, ma non ho una barca!» Poi afferrò una treccia di Pippi, ma la lasciò subito andare strillando «Oi, mi sono scottato!» Allora i 5 ragazzi si misero a fare il giro tondo intorno a Pippi e saltando gridavano «Cappuccetto rosso, cappuccetto rosso!» Pippi se ne stava tranquilla nel mezzo e sorrideva con aria affabile. Bengt, che aveva sperato che lei si arrabbiasse, che si mettesse a piangere o almeno che si spaventasse, visto che prenderla in giro non serviva a nulla, le diede improvvisamente uno spintone. «A quanto pare», disse Pippi, «non sei molto galante con le signore». E così dicendo lo sollevò in aria sulle sue forti braccia, lo trasportò fino a una betulla che cresceva lì accanto e infine lo appese a un ramo. Poi prese il secondo ragazzo e lo appese a un altro ramo. Afferrò il terzo e lo piazzò a sedere su un pilastro al lato del cancello di una villa e il quarto lo scaraventò al di là di uno steccato facendolo finire in una aiuola fiorita. L'ultimo dei rissaioli, infine, Pippi lo depositò in una minuscola carriola giocattolo abbandonata lungo la strada. Poi Pippi, Tommy, Annika e Ville rimasero a contemplare per un po' i ragazzi, che erano ammutoliti dallo stupore. «Siete dei bei vigliacchi», disse infine Pippi. «Prima vi buttate in 5 su un ragazzo solo, poi cominciate anche a dare degli spintoni a una povera ragazzina indifesa. Bah, che porcheria! E ora andiamocene a casa», disse a Tommy e ad Annika. E rivolta a Ville, «Se si provano a dartele di nuovo, basta che mi avverti». E a Bengt, che non osava muoversi dall'albero, «Se hai qualcos'altro da aggiungere a proposito dei miei capelli e delle mie scarpe, spicciati prima che torni a casa». Ma parve che Bengt non avesse più nulla da aggiungere sulle scarpe di Pippi e nemmeno sui suoi capelli. Allora Pippi raccolse il barattolo di latta e il rocchetto e se ne andò, seguita da Tommy e Annika. Quando furono arrivati nel giardino di casa sua, Pippi disse: «Tesorini miei, come mi dispiace! Io ho trovato due cose meravigliose e voi siete rimasti a mani vuote. Datevi ancora un po' da fare. Tommy, perché non guardi in quel vecchio albero cavo? I vecchi alberi cavi sono luoghi ideali per i cercacose». Tommy borbottò che era convinto che lui e Annika non sarebbero mai riusciti a trovare niente. Ma per non far dispiacere a Pippi, infilò una mano nella cavità del tronco. «Ma tu guarda!» mormorò stupefatto ritirando la mano. In pugno aveva uno stupendo taccuino rilegato in cuoio. In un anello era infilata una penna d'argento. «Che strano!» disse. «Visto?» disse Pippi. «Non c'è niente di meglio che fare il cercacose. Quello che mi meraviglia è che in fondo non sono in molti a voler fare questo lavoro. Falegname, calzolaio, spazzacamino, questo la gente vuol diventare. Ma cercacose no, non si degnano». «E ad Annika? Perché non provi a cercare in quel vecchio ceppo? Non hai idea di quante cose si trovino nei vecchi ceppi?» Annika cercò dove le era stato indicato e quasi subito estrasse una collana di coralli, rossa. Per un bel po' lei e Tommy rimasero a bocca aperta dallo stupore e dopo decisero che da quel momento in poi avrebbero fatto i cercacose tutti i giorni. Pippi, che la sera prima era rimasta sveglia fino a notte inoltrata a giocare a palla, improvvisamente fu colta dal sonno. «Credo che schiaccerò un pisolino», disse. «Vi dispiacerebbe venire a rimboccarmi le coperte?» Seduta sul bordo del letto, Pippi stette a rimirare pensosa le scarpe che si era appena tolta. «Ah, voleva andare a remare, quel Bengt! Boh!» sbuffò sdegnata. «Gli insegno io a remare la prossima volta!» «Ma dimmi, Pippi», le chiese Tommy rispettosamente, «perché porti scarpe tanto grandi?» «Per poter muovere le dita dei piedi», fu la risposta. Poi Pippi si sdraiò per dormire. Dormiva sempre con i piedi sul cuscino e la testa in fondo al letto, sotto le coperte. «In Guatemala dormono così», affermò. «È l'unica maniera veramente comoda di riposare. E così riesco a muovere le dita dei piedi anche mentre dormo». «Voi siete capaci di addormentarvi senza ninna nanna?» proseguì. «Io no. Devo sempre cantarmela da me, altrimenti non riesco a chiudere occhio». Tommy e Annika udirono infatti un vago borbottare provenire da sotto le coperte. Era Pippi che cantava fino ad addormentarsi. Buonanotte. In silenzio e stando molto attenti a non disturbarla, uscirono in punta di piedi. Sulla soglia si girarono e rivolsero un ultimo sguardo al letto di Pippi. Videro solo i piedi posati sul cuscino con le dita che si muovevano energicamente. Tommy e Annika trotterellarono a casa. Annika teneva stretta in mano la sua collana di coralli. «Però, che strano», commentò. «Tommy, non credi mica... credi che sia stata Pippi a nascondere le cose che abbiamo trovato?» «E chi lo sa», disse Tommy. «Non si può mai sapere quando si tratta di Pippi». «Buonanotte, Pippi. Sogna la tua casetta di Villa Colle. La tua scimmietta. I tuoi amici, Tommy e Annika. Il cavallo diretto. Papà Capitano e Fine. La zia Proselius. Blu. E i poliziotti, Clean e Clang. Dormi, Pippi, buonanotte. A te. Valentina Carnelutti ha letto Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren. Regia di Luigi Iavarone. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma di Rai Radio 3.